Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Anche oggi la cronaca della giornata economico-finanziaria e anche oggi è molto intersecata con la cronaca politica, non solo perché il Presidente della Repubblica Napolitano è tornato sul rischio contagio e ha detto l'Italia non è lo sbando e non vi è alcun rischio di contagio perché per contagiarsi occorre che uno abbia una malattia, noi non abbiamo una malattia. Su questo ne parleremo nella seconda ora del programma, anche molti interventi. Il presidente tedesco Gauck ha detto, come tedeschi non dobbiamo dire che stiamo temendo il rischio di un contagio in Europa, anche Van Rompuy su questo, che è il presidente permanente del Consiglio europeo dopo l'incontro con Mario Monti. E poi però anche altri rischi paventati oggi da Citigroup, la banca d'affari americana. Infatti dice che l'Italia potrebbe, dopo il risultato delle elezioni, potrebbe portare l'Italia a richiedere un programma di aiuti già nei prossimi mesi e a questo punto addirittura le agenzie di rating, quelle che danno un voto al debito dei vari paesi, potrebbero abbassare il nostro voto di 5 livelli nei prossimi 2-4 anni, ben al di sotto del livello investment grade, il livello accettabile per un investimento. Sarebbe un disastro, chiaramente. E forse Citigroup, anche a livello scaramantico, si merita qualcosa, perché io capisco tutto, ma dire che potremmo già richiedere un programma di aiuti nei prossimi mesi, quando per ora si è sempre ragionato eventualmente di una Spagna. Oggi c'è un dato su Bankia, la banca spagnola in estrema difficoltà, salvata dallo Stato spagnolo, che ha chiuso nel 2012 con un rosso di 19 miliardi di euro. Bankia era la banca nata dalla fusione, dalla corporazione di varie casse di risparmio regionali. Ha fatto il botto per via dei prestiti, soprattutto immobiliari, quindi mutui, salvata dallo Stato spagnolo e con un rosso che a questo punto si sa è di 19 miliardi di euro. Ecco, si è sempre detto che la Spagna avrebbe chiesto aiuti, quelli messi a disposizione dal fondo anti-spread alla Banca Centrale Europea, o meglio con il meccanismo OMT, non tanto l'Italia. Citigroup invece è convinta che già lo faremo noi nei prossimi mesi e che Standard & Poor's e Moody's taglieranno il nostro voto di 5 livelli. Addirittura che Standard & Poor's potrebbe portare il nostro voto da selective a selective default, cioè fallimento pilotato. Ora, come si dice in questi casi, cara Citigroup, intanto la ringraziamo perché Citigroup fu una delle banche che più vennero salvate e soprattutto che ebbero il maggior buco dagli investimenti fatti in derivati e in strumenti ad altissimo rischio, quindi rischio non controllato. Ringraziamo Citigroup perché grazie anche a banche così che la crisi è iniziata, e la ringraziamo per queste previsioni rispondendole, diciamo, in maniera leggermente scaramantica. Mi è mancato l'U finale del gufo, peccato, mi piaceva molto. Comunque il gufo per Citigroup è d'obbligo. Andiamo avanti. Come va la borsa? Più 0,60% Milano, più 0,85% Francoforte, più 0,95% Parigi, quindi tutte sulla stessa falsa riga, tra mezzo punto e punto percentuale di guadagno, più 0,60% Londra. L'America è invariata, euro a quota 1,30. Da noi, e tra i titoli, molto bene Salvatore Ferragamo più 5,5, Autogrill più 5, Buzzi Unicem più 4,80, Prismian più 3,80, Luxottica più 3%, Terna più 1,90, Mediaset più 1,80, Enel più 1,70 come Campari, Telecom Italia più 1,60, Diasorin più 1,5 come Ubibanca, Tod's più 1,40%, Ansaldo più 1,30 come Mediolanum. Fronte opposto, Mediobanca meno 2,30, Popolare Emilia Romagna meno 1,50, Intesa San Paolo meno 1,1, ST Microelectronics meno 1 come Saipem e Tenaris, lo 0,90 lo perde anche Fiat. Il numero per i vostri sms è sempre 349-238-6666 e invece quello per scrivere tramite internet è la pagina di Focus Economia su Facebook. Andiamo avanti con le altre notizie. Dicevo, al di là della crisi, del rischio contagio della crisi italiana, oggi e questa sera sarà una serata delicatissima per gli Stati Uniti. Infatti, se non si trova un accordo, in realtà entro domani mattina partiranno in automatico dei tagli da 85 miliardi per l'economia americana per quest'anno. Fanno parte dei tagli automatici, ricorderete il tema del fiscal cliff, del precipizio fiscale. Oggi ne ha parlato anche Barack Obama, che ha detto la prima sfida da affrontare è proprio quella dei tagli automatici alla spesa, che saranno un duro colpo all'economia. L'economia non è dove vorremmo che fosse, ma ci sono motivi di ottimismo guardando avanti. Non è dove vorremmo che fosse, anche perché oggi si è saputo che negli ultimi quattro mesi del 2012 il PIL americano è cresciuto solo dello 0,1% contro un'attesa di uno 0,5% ed è la crescita più bassa, quella del quarto trimestre, la più bassa, dicevo, dal primo trimestre 2011. A segnalare che comunque un rallentamento non solo nell'area euro ma in vari paesi c'è stato negli ultimi mesi del 2012. Ancora per quello che riguarda il Fondo Monetario, ha detto che rivedrà le stime di crescita per gli Stati Uniti dopo che appunto saranno entrati in vigore in maniera automatica i tagli alla spesa. Le stime indicano come questi tagli potrebbero avere un effetto sul PIL di un meno 0,5, riducendolo di 0,5 punti nel 2013. E poi sempre il Fondo Monetario dice questi 85 miliardi che l'America potrebbe dover tagliare in automatico avranno un impatto sull'economia globale. Veniamo all'Europa. La Germania vede il tasso di disoccupazione a febbraio fermo al 6,9%, con un calo di 3.000 unità dei senza lavoro, un dato migliore delle stime degli analisti. La Germania vive un momento d'oro anche sul fronte della disoccupazione. Caso completamente diverso invece quello greco, dove oggi si è saputo che a dicembre le vendite al dettaglio, quindi i consumi non per beni durevoli, sono crollate di quasi il 9%. Ora attenzione, perché le vendite al dettaglio si muovono non come i titoli in borsa, cioè un meno 1, meno 2 già è un dato drammatico, perché sono vendite spesso di beni, non dico di prima necessità, ma quasi. Quindi vedere un taglio del 9% è una cosa incredibile. Tra l'altro a novembre fu meno 17% il dato sulle vendite al dettaglio in Grecia. Le voci più penalizzate, e qui già si capisce quanto profonda sia la crisi greca e quanto l'imposizione di alcuni tagli stia, lo dico senza nessun giudizio di valore, ma stia affamando i greci, mettendoli in ginocchio. Hanno tagliato soprattutto i prodotti farmaceutici, meno 20%. Ora, da che mondo è mondo, tranne qualche ipocondriaco, nessuno compra un farmaco se non ne ha bisogno. No? Allora, che tu vada a tagliare i prodotti farmaceutici è come comprimere il consumo di pasta e latte, quasi. Cioè vai a comprimere qualcosa che usi solo quando ne hai necessità. Poi ci saranno quelli che comprano le aspirine e altri prodotti perché sono ipocondriaci, ma ripeto, meno 20%, e poi l'abbigliamento meno 13%. E siccome Atene non riesce a pagare i conti, la notizia di oggi è che la Svizzera taglia le forniture di sangue alla Grecia. In che senso? Nel senso che la Croce Rossa svizzera aspetta dalla Grecia più di 3 milioni di euro per le sacche di plasma già inviate. E quindi cosa ha annunciato Rudolf Schwab, direttore delle donazioni internazionali per la Croce Rossa? Non è stata una decisione facile, ma i mancati pagamenti non erano più sostenibili, per cui la fornitura di sangue da parte della Croce Rossa alla Grecia verrà diminuita a partire dal prossimo anno e crescerà e cesserà, scusatemi, del tutto nel 2020 se non sarà saldato il conto. La Grecia importa dalla Svizzera circa 30.000 sacche di plasma l'anno, che sono il 10% delle donazioni effettuate da Berna. È dagli anni 70 che la Grecia deve far fronte alle sue esigenze sanitarie importando sangue, e un import un po' particolare, il principale donatore è appunto la Svizzera. Come va lo spread nostro? Intanto scende sotto i 330 punti base, abbiamo già detto di Citigroup, si è beccata anche il gufo. La copertina dell'Economist su Grillo che su Berlusconi, che dice entrino i clown, come le disastrose elezioni in Italia stanno minacciando il futuro dell'euro. Questa è la copertina dell'Economist, del settimanale Economist, che uscirà domani. E poi anche le dichiarazioni di oggi di Monti dopo l'incontro con Herman Van Rompuy, quindi il presidente permanente del Consiglio europeo. Io prima di arrivare a questo vorrei, però, siccome qui stiamo parlando anche di, e ne parleremo, di un'Europa che non può non tener conto, vorrei essere molto chiaro su questo. A mio avviso qui il rischio contagio non è di contagio economico finanziario, quello l'abbiamo già avuto senza elezioni difficili, senza un paese apparentemente ingovernabile, l'abbiamo avuto a giugno del 2011, se l'è beccato la Spagna, se l'è beccato l'Italia, quello, diciamo, l'abbiamo già visto. E la risposta più importante è stata quella di Mario Draghi, che aggirando anche molti vincoli tedeschi ha detto la Banca Centrale Europea garantirà finché ce ne sarà bisogno sulla tenuta dell'euro e quindi anche delle sue banche. A mio avviso il rischio contagio di cui stiamo parlando in questo momento è un contagio in primo luogo politico, e cioè finché era la Grecia a votarsi Alba Dorata agli estremisti nazisti, o adesso ieri è diventato il primo partito, stando ai sondaggi, l'estrema sinistra, uno poteva dire è un caso greco. Ma quando la terza economia d'Europa, la seconda per esportazioni, la seconda per struttura manifatturiera, noi non stiamo parlando di un paese così, ha da un risultato elettorale una tale manifestazione di un voto di protesta, ma non protesta generica, protesta perché 620.000 disoccupati in più in un anno, la disoccupazione che è tornata ai livelli degli anni 90, i consumi che hanno fatto un balzo indietro al 94, possono andare avanti, la disoccupazione giovanile che viaggia verso il 30% e quant'altro. Ebbene, questo non è un voto di protesta e basta contro la classe politica, è anche un voto di protesta contro una politica dell'area euro che fa intravedere solo tagli, sacrifici, e non si capisce poi come si ripartirà a crescere, visto che il PIL peggiora. È come uno studente svogliato, perché eravamo uno studente cattivo, non imporre solo un piano di studi di recupero, ma dirgli studierai anche tutta l'estate, poi l'anno prossimo, e dovrai farcela da solo senza che l'Europa serva a nulla, se non obbligarti a studiare. Beh, non è un atto pedagogico di quelli indicati, uno deve dare anche una prospettiva. Se studi avrai qualcosa in cambio, verrai promosso, farai le vacanze quest'estate, non lo so. No, ma attenzione, il voto non è un voto solo così di protesta, come dicono gli sciocchi, di antipolitica, che non vuol dire assolutamente nulla. È un voto, a mio avviso, per una politica diversa che ha bastonato o comunque deluso le aspettative dei partiti che si erano schierati su una linea assolutamente filoeuropeista come quello di Monti, e comunque a mio avviso troppo morbidi con l'Europa, con questa Europa, non con l'Europa in generale, con queste politiche europee, come ieri, ricordate la mia scambio di battute con Fassina, come il PD è sembrato essere, cioè morbido su quello che è il dramma che sta vivendo il paese. Allora prendiamo atto di questo, perché questa è la variabile politica e questo è il contagio che rischia l'Europa. Faccio notare, e poi concludo, che Spagna e Francia non hanno dato grandi dichiarazioni preoccupate sul voto italiano, e c'è un motivo, e sotto sotto sono contente che il tema del disagio sociale venga fatto emergere dall'Italia in modo da poterlo portare con più forza in Europa, perché Hollande la pensa esattamente così, e in Spagna non è che abbiano tutta questa voglia di continuare con solo il rigore, l'austerity imposta dai tedeschi. Detto questo, proprio perché è anche un disagio contro l'Europa, occorre che noi ci diamo una regolata. È un voto contro questa politica e contro questa Europa. Raccontiamo allora che cos'è questa politica ancora, e non si meravigliano i grandi partiti se poi, lasciatemelo dire tutto, adesso le elezioni sono finite, posso parlare liberamente, se poi Grillo prende i 25%. Abbassare, putterecche più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, putterecche più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tutte più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, adesso le elezioni non ci sono, no, per cui possiamo raccontare, per esempio, che a conteggio delle schede ancora caldo, i tesorieri dei partiti che contano i voti sono già pronti a spartirsi, come prevede la legge. Per i prossimi 5 anni una torta di circa 160 milioni di euro di rimborsi elettorali. La polemica non è servita a nulla sui rimborsi elettorali, no? E quindi continuano. Ah, sono rimborsi che valgono anche quando non ci sono le elezioni, sono quei rimborsi che poi permettevano ai parlamentari di spendere e ai partiti, scusatemi, li abbiamo visti anche a livello regionale. Allora, pensate un po', ci sono solo 159 milioni questo giro. Nel 2008, dopo le elezioni, i rimborsi valevano 407 milioni. Tanti voti prendi, tanti soldi incassi, quindi il Movimento 5 Stelle ne avrà 42,7 di milioni, il PD avrà 45 milioni 800 mila euro, il PDL 38 milioni. Mario Monti, cioè il suo movimento Scelta Civica, 7 milioni di euro, a cui si aggiungono però anche gli 8 milioni al Senato. E poi però questi soldi poi Mario Monti dovrà spartirli anche con gli alleati dell'UDC e di FLI. Casini intanto raccimola un altro 1,5 milioni, il partito di Fini invece non vedrà neanche un euro perché non ha eletto direttamente nessuno. Ma qui entra in gioco la legge elettorale nel 2005, quella di Calderoli, il Porcellum, perché Fini ha ottenuto 160.000 voti, non ha alcun deputato. Gli autonomisti dell'Alto Adige, della Südtiroler Volkspartei, ha avuto meno voti di Fini, ma ha eletto 5 deputati e quindi porterà a casa 366.000 euro. 350.000 euro andranno anche al Grande Sud di Gianfranco Miccichè, e 350.000 euro per il megafono di Rosario Crocetta, governatore siciliano. A bocca asciutta invece Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia e anche Rifondazione Comunista, Verdi, l'Italia dei Valori e il PDC. Ma non è tutto, perché presentiamo Teodoro Buontempo. Non è stato eletto alle elezioni della Camera, però il presidente della destra porterà a casa un doppio vitalizio. Deputato per 5 legislature, infatti si è ritrovato assessore della Regione Lazio nel momento in cui si cancellavano per legge i vitalizi, ma dal giro successivo. Quindi, avendo avuto 2 vite politiche, gli spettano 2 vitalizi. So che è un'assurdità, ma è così. E ci sono in Italia 200 ex politici a cui spetta la doppia razione. Doppia razione nel senso che doppio vitalizio. Per esempio, nonostante l'indignazione popolare, l'ex consigliere laziale dell'UDC Rodolfo Gigli dal 2001 al 2006 era deputato di Forza Italia, doppio vitalizio. L'ex capogruppo del PDL nella stessa regione, Esterino Montino, era stato dell'Ulivo per 7 anni. L'ex vicepresidente dell'UDC nella giunta di Renata Polverini, Luciano Ciocchetti, ha fatto 3 legislature da deputato e quindi avrà il doppio vitalizio. Il vitalizio della regione, tra l'altro, può scattare subito. Quello per la Camera scatta dopo i 60 anni. Ma nemmeno il presidente della provincia di Caserta ha il problema dell'età, perché anche lì scatta subito e scatta già nel 2005... E incassava sia il vitalizio regionale che l'indennità parlamentare. E poi la cosa pazzesca è che c'è anche l'indennità di fine mandato, cioè se ti trombano, non vieni eletto, non ti candidi, giustamente devi reinserirti nel mondo del lavoro, che per alcuni deputati significa proprio passare dalla tavoletta sumera al computer, tanto erano rimasti in legislatura. No, interessante, perché quando invece c'è l'esodato, lì, lo dico senza populismo, il reinserimento nel mondo del lavoro di chi viene fatto fuori dal mondo del lavoro è un tema aleatorio, no? Lo lasciamo alle agenzie private interina di lavoro, va bene. E quindi è una cifra da non buttare via pure quella, ma nemmeno lontanamente paragonabile a quella che si porterà via dalla Regione Lombardia Roberto Formigoni. Ha governato per 18 anni, il suo reinserimento avverrà al Senato. Allora, Formigoni avrà tra i 450 e i 500 mila euro lordi, perché in Lombardia, come in Puglia, la buona uscita dei consiglieri si calcola in ragione di un'annualità lorda per ogni mandato di 5 anni. È un meccanismo, per farvi capire, due volte e mezzo più favorevole rispetto a quello che abbiamo noi col TFR, cioè il calcolo del TFR è la metà del calcolo che viene fatto se tu sei consigliere della Regione Lombardia o della Regione Puglia. Ecco perché Formigoni, dopo 18 anni, se ne va a casa, non va a casa, va al Senato, ma si becca anche quasi mezzo milione di euro, 500 mila euro lordi di TFR. Avanti così. Quanto costa sta roba alla Regione Lombardia? 5 milioni di euro, e al Lazio quasi 3 milioni e mezzo. Potrei andare avanti raccontando a Napoli dei biglietti con numeri da telefono da chiamare, con nomi e cognomi scritti a mano, con varie cancellature, permessi, adesivi di ogni sorta, che vengono appiccicati nelle macchine parcheggiate nella zona a traffico limitato, per ricordare che sono tutte automobili degli assessori e dei consiglieri comunali, per ricordare che un assessore e consigliere è una cosa veramente indegna. Gli stessi che in campagna elettorale annunciarono che avrebbero girato a piedi per Napoli o in bicicletta, abbandonando comunque le auto blu. Poi molti dimenticano a casa il permesso. Io non penso che dimenticano a casa il permesso, penso che lo diano a qualcun altro con un'altra auto, va bene? Perché sono stufo e malizioso, e quindi scrivono di proprio pugno nome e cognome, l'assessore, dove lavora, bellissimo. E poi ce ne sono cartoncini di ogni tipo e colore, addirittura l'International Police Association. Adesivi associativi che riportano la dicitura polizia, pur non essendo di poliziotti. Ce ne rendiamo conto. Mentre a Genova, sarà perché sono genovesi, i vigili ormai si muovono con l'autobus sulle linee notturne. Quindi non vi sorprendete se trovate un autobus a Genova su cui monta un vigile con la paletta. Perché? Perché il comune non ha soldi per riparare le auto di servizio, e i cantunè, come si chiamano i vigili a Genova, usano i mezzi pubblici per spostarsi soprattutto dai distretti a Piazza Ortiz, da dove partono le pattuglie notturne. Le attività investigative sono azzoppate. Non ci sono più telecamere. Il parco auto è da rottamare. Circolano una Suzuki Vitara del 1998, una Fiat Marea del 2000. Ragazzi, ma ce ne diamo conto? Dei furgoni Ducato, delle Fiat Panda che hanno quasi 10 anni. E poi le nuove grandi di punto acquistate un anno fa sono Euro 3. Complimenti. Quindi per trasformarle in Euro 4 hanno dovuto sostituire delle parti, mettendo un filtro FAP. Ebbene, ogni 10.000 km si fermano se non viene sostituito interamente l'olio. Mi sembra perfetto. Quindi a Genova praticamente girano con la Marea del 2000 e la Suzuki Vitara del 98, però poi nelle regioni vediamo milioni per il doppio vitalizio, per l'assegno di reinserimento, per il TFR calcolato a due volte e mezzo quello che calcolano a noi. Non potevamo non chiudere con i contratti d'oro dell'ente storico della formazione professionale della Sicilia. Pensate che il Ciapi, che in lombardo già è quasi un onomatopeico, Ciapi, allora ha firmato contratti d'oro per varie società di comunicazione, sempre le solite, per 4 milioni di euro. Per fare che cosa? Per fare pubblicità per progetti di formazione conclusi da tempo, cioè non c'erano più i corsi, e questi continuavano a fare pubblicità. Ma ci rendiamo conto? hanno fatto 250 assunzioni tra il 2007 e il 2008, stranamente era l'anno delle elezioni comunali a Palermo e regionali, attraverso un avviso pubblicato appena 7 giorni prima su internet. Hanno speso 15 milioni di euro per avviare l'apprendistato 1500 disoccupati, questo era l'obiettivo. Sapete cosa hanno fatto con 15 milioni di euro? Hanno garantito un contratto di apprendista in imprese private ad appena 18 giovani. Praticamente per ogni assunzione in un'impresa privata la regione, tra l'altro a tempo determinato, 12 mesi, la regione ha speso 833.000 euro per assunzione. Facevi prima a Craglia una società apposita con un unico assunto. Questa è la fotografia che hanno scattato, che ha scattato l'organismo antifrode dell'Unione Europea quando è andato a aprire il vaso di Pandora del Ciapi di Palermo. Erano 4 ispettori. Complimenti. Complimenti a tutti. Direi applauso collettivo ai nostri deputati, ai consiglieri regionali, al doppio vitalizio, al TFR che vale 2,5 volte, ai vigili invece di solidarietà di Genova e anche al Ciapi, quindi a chi dovrebbe formare i disoccupati siciliani. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, un ascoltatore scrive: sono sempre più contento di non aver votato, meno votanti, meno magna magna. Eh no, magari fosse così. Sono sempre 630 deputati e 315 senatori. Non è che se votiamo in pochi ci sono meno deputati. Potrebbe essere un'ipotesi. Invece c'è chi dice anche su Facebook, oltre che al 349-238-6666, lei in questo modo fa propaganda a grillo. Guardi, posso dire una cosa che non me ne frega nulla? Nel senso che denunciare gli sprechi, visto che da un lato critichiamo la politica di Bruxelles a trazione tedesca perché miope, autolesionista, masochista, tutto quello che volete, però dall'altro facciamo anche autocritica noi, ok? Così. Non accetto che qualche leader dell'SPD dia del clown a chi è stato democraticamente eletto in questo paese, e bene ha fatto ieri il Presidente della Repubblica anche oggi, però poi lasciate che ci critichiamo in casa, e quello che raccontiamo da mesi è uno schifo, come quello che raccontavamo anche su Disperati Mai, imprenditori sull'orlo del suicidio, nessuno che se ne sia mai occupato, no? Qualche dichiarazione in giro. Ultima nota, avete ragione, il Movimento 5 Stelle, prima citavo i rimborsi elettorali, ha diritto, come tutti i partiti, in base ai voti, al rimborso elettorale, sarebbero 42,7 milioni, dico sarebbero perché il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che non li vorrà, non li prenderà, li ridarrà indietro, e a questo ci atteniamo, ci mancherebbe. Devo dire che su questo i consiglieri del Movimento 5 Stelle in Sicilia, vado a memoria, hanno ridato 8.000 euro su 10.000 cui avevano diritto, per cui questo ne prendiamo atto e magari serve anche agli altri. Dopodiché l'accusa di tirare la volata a grillo non mi interessa, non è che non possiamo più parlare degli sprechi perché sennò c'è un partito che becca i voti, e iniziassero a farlo anche gli altri. Non sono riusciti a fare la riforma elettorale, sui vitalizi non hanno combinato niente se non la prossima legislatura, vale anche per i rimborsi elettorali, e vedrete che anche gli altri partiti beccheranno i voti. Io cosa devo dirvi? Chiedete a gran voce quinto potere, vabbè dai, facciamo quinto potere e poi andiamo avanti però con il ragionamento sul rischio contagio. Quinto potere. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Professor Giacomo Vaciago, buonasera. Buonasera a tutti. Lei ha sentito la prima parte? No, devo dire insomma, la verità. Vitalizi, il TFR di Formigoni che vale 2,5 volte quello normale, i 15 milioni spesi in Sicilia per... Sembra che siamo ancora... 15 milioni spesi per generare 18 occupati per un anno, praticamente 833.000 euro, questo è il bilancio del Ciapi. ente storico della formazione professionale in Sicilia. E tutto così, nonché i doppi vitalizi, perché chi ha fatto sia il deputato che il consigliere regionale becca il doppio vitalizio. Allora, mi dico una cosa, vorrei tornare sulle parole del Presidente della Repubblica di oggi, che dice non c'è rischio contagio perché non abbiamo una malattia. Secondo lei il contagio di cui dobbiamo temere è quello economico-finanziario o è quello politico? E cioè che l'Italia abbia dato un segnale fortissimo a cosa capiterà a questa Europa se non si fanno riforme interne dei nostri parlamentari, ma anche non si cerca qualche politica per aiutare questa massa di disoccupati che si muovono in Europa. Ma vediamo una riflessione, ho scritto 2 anni fa che noi siamo l'unico paese che ha privatizzato la politica, nel senso seguente, noi parliamo molto dei politici, loro non si occupano di noi. E questo sentimento l'abbiamo rivisto paradossalmente solo in una parte che non a caso ha avuto un successo incredibile. L'ha detto per anni, si chiama Movimento 5 Stelle, guidato da Beppe Grillo. Attenzione, le cose di Grillo girano da anni. E la cosa che mi ha più colpito è che neppure le parti ovvie di buon senso che ci sono pure nel Movimento Grillo, c'è molta stupidaggine, ma c'è anche tanto di cui gli altri partiti avrebbero dovuto imparare. Non è mica proibito copiare in politica. E vedere il programma di Berlusconi e il programma di Bersani così impermeabili a questi problemi che venivano discussi dal Movimento 5 Stelle prima della campagna elettorale, beh, è la cosa che più mi ha colpito. I due grandi partiti conservatori in Italia, cioè va tutto bene così, per piacere non disturbateci, sono stati rispettivamente il PDL e il PD, col risultato di regalare l'innovazione, la novità, eccetera, a una serie di cose, alcune di buon senso stranamente ignorate, altre paradossalmente altre non rilevanti. Professor Ciago, vediamo un attimo, ecco, quelle di buon senso, lasciami finire solo un concetto. Finché il paese cresceva c'era spazio anche per gli sprechi, le inefficienze, i privilegi e così via. Da 15 anni questi sprechi, c'è nome e cognome a chi vengono portati via sti soldi. Perché se il paese non cresce e tu hai un aumento di reddito, comunque l'hai portato via a qualcun altro, che te lo sia meritato o no. Se poi per di più non te lo sei meritato, chiamasi furto. E questo è il grave, ma è vero da 15 anni, perché da 15 anni l'Italia non cresce, da 5 va indietro. Questi privilegi che c'erano già, perché i banchieri ladri non è un'invenzione recente, ma c'era del grasso e prendevano quello. Adesso il grasso che è finito, quando uno ruba qualcuno muore di fame, questo è drammatico. Allora, questo per quello che riguarda la parte interna, e cioè lei dice, se ho ben capito, c'erano delle cose nel Movimento 5 Stelle che al di là di tante andavano raccolte, visto poi il consenso che tutti i sondaggi già gli davano, non così forte, ma comunque era già molto forte, nessuno le ha adottate. Penso alla riduzione del numero dei parlamentari, penso ai rimborsi elettorali. Lei parla di costi della politica, soprattutto sulle parti, diciamo, da adottare? Le cinesi, c'è tante cose che negli altri paesi normali già ci sono. E quindi lì il Movimento 5 Stelle solo ci chiedeva di adeguarci alle best practice americane e europee. Anche sulla finanza e sulle banche, devo dire, non solo sulla ovviamente, politica. Ovviamente. Metà delle cose che c'ha il Movimento 5 Stelle sono già nel resto d'Europa e del mondo civile. E questo è un paradosso, perché allora vuol dire che i partiti immobili su come eravamo bravi una volta non hanno capito che eravamo in ritardo sul resto del mondo. E questa è la mancata crescita. I made a point in my 15 months as of Prime Minister of Italy Voglio sottolineare che nei miei 15 mesi come primo ministro in Italia, anche nei momenti più difficili, non ho mai detto, né al Parlamento né all'opinione pubblica, che certe misure restrittive dovevano essere prese perché ce le chiedeva l'Europa. E questo nonostante fosse però vero che ce lo chiedeva l'Europa. Penso che sia ridicolo dare la colpa all'Europa e poi sorprendersi, in modo un po' ingenuo, se la fiducia nell'Europa è in discesa. Penso che si tratti semplicemente di una questione di onestà. Così appunto oggi Mario Monti nel suo incontro con Van Rompuy, col presidente permanente del Consiglio europeo. Ridicolo attaccare l'Europa, è questione di onestà. Vabbè, Monti lo sappiamo che la pensa così. Professor Vaciago, la risposta alla domanda: è un contagio politico quello che rischia l'Europa? Beh, l'Europa oramai ce n'è due, e noi con queste elezioni abbiamo confermato i dubbi che noi abbiamo, non che il resto del mondo ha, sul fatto che abbiamo capito a quale parte dell'Europa ci conviene appartenere. Attenzione, la crisi iniziata, ahimè, qualche anno fa, è fra una parte che ha capito le regole del mondo, fa squadra, si integra, e quella che una volta chiamavamo la Germania, oramai sono 150 milioni di europei, non sono solo i tedeschi, si stanno integrando su base dell'industria tedesca, che è la piattaforma di questa area, che per inciso arriva a Bologna. E con l'arrivo della Ducati i tedeschi annunciano che aprono scuole professionali a Bologna. Beh, potevamo farlo anche noi, non dirò in Germania, ma certo in Italia. In ogni caso, questa parte dell'Italia fa parte oramai di questa piattaforma europea, e lì la crescita c'è. Attenzione, l'economia tedesca sta andando in boom. Qualcuno 3 mesi fa sembrava essere contento che finalmente andava in recessione la Germania. Peccato che non è vero. La Germania sta crescendo alla grande e sta assumendo greci, spagnoli e così via. Però anche di questo non ci se ne accorge, perché noi ormai riusciamo a fatica a capire il passato. Il pericolo vero che io vedo è che mezza Italia se ne va navigando verso la Grecia e la Spagna, che non sono in grado di progettare un futuro. Cioè, il dibattito sull'austerità è un dibattito inutile. Quello che Draghi scriveva a Berlusconi nell'agosto del 2011 era risanamento, pubblica amministrazione leggera e efficiente e misure per la crescita. Questo è ancora quello di cui il paese ha bisogno, prima o poi lo facciamo. Nel frattempo, essendo ricchi, viviamo di capitale, non facciamo più le manutenzioni da anni negli edifici pubblici che cascano, non investiamo sul futuro del cervello dei nostri figli, i migliori vanno in borse di studio in Germania e non più in America, e così via. E questo vuol dire che noi stiamo scaricando tutti i costi sui nostri figli. Questo è il vero dramma. E questo non è stato paradossalmente discusso mai in campagna elettorale. Io le ho chiamate elezioni inutili, ma farle presto e così altrettanto inutili non lo consiglio a nessuno, è un altro spreco. Sì, solo di tasse a breve si è discusso in campagna elettorale. Quindi lei non teme, per concludere, professor Vaciago, che vi possa essere, che quello italiano sia un segnale politico più che economico pesantissimo sull'Europa? Ma se io vado a vedere cosa pensano dell'Europa in Germania, in Finlandia, in Danimarca, di questa Europa, non dell'Europa in generale, gli va bene questa Europa, hanno capito cosa fare per averne i benefici. Se noi vogliamo solo i costi senza avere i benefici, peggio per noi. Possiamo a lungo danneggiare i nostri figli, non riusciamo più a danneggiare i tedeschi, anche perché l'abbiamo visto l'anno scorso, quando noi facciamo casino i tedeschi ci guadagnano, perché hanno il costo zero del fatto che i nostri portano i loro soldi in Germania, quindi i tassi loro ci guadagnano. Allora, l'Europa oggi è costruita in questo modo, grazie a Draghi la periferia non riesce più a danneggiare il core, il centro. Se a questo punto la capiamo, che per quanto caos facciamo, facciamo del male solo ai nostri figli, forse ci rimbocchiamo le maniche e ricostruiamo il paese. C'è da investire molto, perché abbiamo dormito per anni. Professor Vaciago, grazie Giacomo Vaciago, che per chi non lo sapesse insegna politica economica all'Università Cattolica di Milano. Lunga. Intanto la borsa come ha chiuso? Più 0,60% Milano, più 0,85% Parigi, più 0,86% Francoforte, più 0,55% Londra, male Mediobanca, meno 1,90%, Saipem meno 1,30%, Popolare Emilia Romagna meno 1% come Tenaris e Intesa San Paolo, bene Ferragamo più 6,20%, Buzzi Unicem più 4,80%, Luxottica più 3,60%, Autogrill più 3,60% pure, Prismian più 2,60%, Mediaset più 2,5%, Enel più 2,20%, Terna più 2,20%, Campari più 2%, Telecom anche, Toz più 1,70%, Ubibanca più 1,70%, Atlantia più 1,5%, Mediolanum più 1,38%, Diasorin più 1,30%, Monte dei Paschi più 1,20% come Ansaldo, STS e Fiat Industrial. Allora, Mario Sprafico, direttore investimenti di Schroders Italia, buonasera. Buonasera. Poi la risentirò nella seconda parte, però mi dica una prima cosa, visto che anche lo spread oggi è tornato a 330, seconda giornata di mercati abbastanza stabili, e leggera crescita, è finito il per ora il rischio o l'effetto elezioni, l'effetto caos Italia? Ma in parte definirei oggi una giornata di assestamento, quindi dire che è finito tutto il sistema, diciamo, e anche soprattutto il sentiment legato al problema elettorale in Italia, credo proprio di no, credo che ci saranno ancora una certa volatilità e quindi anche un certo tipo di nervosismo, che però vorrei precisare che viene più dagli italiani. Devo dire che negli ultimi 2 o 3 giorni dal nostro osservatorio non abbiamo assistito grossi, diciamo, operazioni che hanno influito sul mercato provenienti dai mercati internazionali. È stato più un nervosismo creato dall'operatore domestico. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa, ripeto, i titoli li abbiamo già dati, con il direttore investimenti di Schroders Italia, Mario Sprafico. Senta Sprafico, chiarito che anche secondo lei c'è stato una si è un po' attenuato quello che è stato l'elemento speculativo, mi dica una cosa, come mai oggi molto forte tutto il lusso? Salvatore Ferragamo più 6,20, Luxottica più 3,60, devo dire anche altri titoli come Campari più 2%, Toz più 1,70. Beh, questo è un tema direi abbastanza dominante nel listino italiano, ma anche in altri listini come quello francese, dove questo è un settore che si ritiene un po' immune dalla crisi o da eventuali pericoli dell'eurozona. Sono società in cui la distribuzione del fatturato è molto orientata ai mercati internazionali e molto meno al mercato europeo, quindi c'è una sorta di travaso di settore da un settore più sensibile ai rischi dell'eurozona rispetto a quelli dei mercati internazionali, quindi sono i cosiddetti esportatori. Non mi stupirei se in queste situazioni si comportano in modo inversamente proporzionale, ad esempio i titoli bancari o altri titoli che sono molto più correlati e sensibili al ciclo europeo. Allora, mentre abbiamo visto anche Autogrill più 3,60, Prismian più 2,60, Enel Green Power più 2,20%, Telecom Italia più 2%, ancora qualche debolezza sui bancari, Unicredit meno 0,26, Mediobanca meno 1,90, Popolare Emilia Romagna meno 1%, lei ritiene che questa debolezza sui bancari, quindi sullo spread, sia destinata a restare, permanere finché non ci sarà un nuovo governo? Ma devo dire onestamente che oggi questa però debolezza in un mercato comunque di ripresa dei titoli di Stato, perché oggi il decennale italiano è migliorato in termini di quotazione, è anche un po' orientata con volumi molto bassi, quindi certamente c'è un'attenzione diciamo su quelli che sono gli sviluppi della crisi politica, quindi questa situazione, però è anche vero che dalla prossima settimana ci saranno i dati delle trimestrali, delle maggiori banche italiane, e questo sarà molto importante perché uno dei temi riguarda proprio i rischi rischi, sugli accantonamenti del credito in sofferenza che le banche italiane, sulle banche italiane, che è stato un tema soprattutto da grossi analisti, da alcuni analisti internazionali, che è sempre stato uno dei temi su cui si è focalizzati per analizzare il valore delle banche italiane. Quindi direi che ci sono entrambi i fattori. Volumi che però confermano che probabilmente sui mercati internazionali questa situazione genera più una curiosità che una preoccupazione. Migliori e peggiori Saras, beh, qui pesano anche i dati diffusi oggi da Saras, perdita di 90 milioni di euro per la società di raffinazione della famiglia Moratti, 90 milioni appunto di rosso, nel 2012 ricavi più 8%, il dividendo a 0,25 euro, il titolo perde il 6% oggi, il peggior titolo in borsa, Mondadori meno 4%, ma qui forse pesa la vicenda Telecom Italia Media, forse, Nokia Corporation meno 2,80%. Bene, invece un altro titolo del lusso, come appunto ricordavamo, Ferragamo più 6,20, Popolare di Spoleto più 6,60, D'Amico International più 9,90, Seat Pagine Gialle più 5,26%. Grazie al direttore investimenti di Schroeder. Noi restiamo in tema però di borsa, perché su Telecom Italia Media oggi è successo di tutto, sembrava cosa fatta tra ieri e oggi, per essere precisi, sembrava cosa fatta la vendita a Cairo, e invece come si è aperta la cosiddetta due diligence, se ho ben capito, cioè uno va a vedere i conti in senso lato, e la trattativa vera e propria, gli advisor, cioè chi fa la consulenza a Cairo, si è bloccato. Vorrei capire di più con Antonello Olivieri del Sole 24 Ore, che sta seguendo l'intera vicenda. Buonasera. Buonasera. È chiaro che il tema è la vendita della SET di Telecom Italia Media, che dovrebbe pagare, se abbiamo ben capito, Cairo circa 1 milione di euro, escluso il 51% di MTV Italia, praticamente solo la SET. In cambio riceverà una società con un patrimonio netto non inferiore ai 145 milioni e occorre che la SET realizzi un aumento di capitale di 95 milioni e con una dote che sarebbe consegnata dall'attuale azionista, che è Telecom Italia, e poi rinuncerebbe a 63 milioni di crediti di media che vanta nei confronti della SET, quindi azzererebbe il debito. Questo era lo schema che conoscevamo. Che cosa si è inceppato, Antonella? Diciamo, non è che si sia inceppato qualcosa, se non che non si è chiuso entro i tempi che erano stati concessi in esclusiva per le trattative con Cairo. Infatti nella notte tra ieri l'altro si è lavorato con gli advisor legali per definire gli ultimi dettagli contrattuali, forse c'è anche qualche cosa di sostanza ancora da meglio definire, però il fatto è che alle 6 di mattina, quando stremati gli advisor se ne sono tornati a casa, gli advisor legali e finanziari se ne sono tornati a casa, ed era stato convocato il consiglio di amministrazione di Telecom Italia Media per siglare definitivamente l'accordo, oppure, in caso fossero rimaste delle questioni aperte, di avere un aggiornamento sulla situazione, si è verificata questa seconda situazione. Il senso è che a sto punto, teoricamente, potrebbe anche riaprirsi la partita, visto che... E infatti, proprio in questi istanti, dunque, Diego, c'è un'agenzia che dice Diego Della Valle e il fondo Clessidra, quello di Esposito, starebbero studiando, secondo quando si apprende, una nuova proposta congiunta, a questo punto, da presentare al Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia sulla 7, scaduta l'esclusiva, come tu ricordavi, nella trattativa tra Telecom, diciamo, e Cairo. Ecco, è un pochino più sfumata in realtà la posizione, perché legalmente è molto avanti la trattativa con Cairo, e quindi o si fa saltare il tavolo da una delle due parti, o altrimenti è difficile anche per il venditore accettare un'altra proposta, perché ci sarebbero delle conseguenze legali. È sfumata perché, diciamo, più sfumata come posizione, perché Clessidra, diciamo, non si è arresa, però la sua proposta riguardava anche i multiples che Telecom non avrebbe più intenzione di vendere. E quindi è molto incerta, è ancora aperta la situazione, ma... Ma tu ritieni che alla fin fine quella resti probabilmente l'opzione più favorita? Dipende tutto dal fatto se riusciranno a mettere questa famosa firma del contratto entro il 4 marzo, quando è fissato il prossimo consiglio di Telecom Italia Media. Però scaldano i motori, appunto, a questo punto, con un'offerta congiunta, stando a quanto riportano le agenzie, Esposito della Valle. Sarebbe Clessidra interessata ai multiples, cioè ai canali digitali che Telecom non vuole vendere, almeno non ai prezzi che erano stati prospettati all'inizio, e la 7 invece a Diego della Valle. Grazie Antonio Olivieri per questo aggiornamento, perché anche quella sembrava una vicenda praticamente già chiusa, così non è. Adesso c'è il traffico, poi invece vorrei tornare sui temi di politica economica estera, cioè i vari incontri in Germania del Presidente della Repubblica, ma anche di Mario Monti, il rischio contagio e anche l'allarme lanciato da Citigroup. 349-238-6666 per i vostri sms, e invece Facebook, la pagina di Focus Economia. Strade in diretta. Sulla 12 Genova-Livorno si resta in coda tra Rapallo e Recco sulla carreggiata verso Genova a causa di un incidente avvenuto all'interno di una galleria. Sul resto dei percorsi, traffico della sera senza grandi disagi da segnalare, ci sono code rallentamenti attorno alle principali città. Raccomandiamo però prudenza a chi viaggia sulla 14 Adriatica, i banchi di nebbia riducono la visibilità a 70 metri circa tra gli svincoli di Rimini Nord e Rimini Sud. Infine ricordiamo che anche questa notte alle porte di Roma si lavora sul tratto urbano della 24, dalle 22 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il tratto di autostrada compreso tra lo svincolo di Sette Camini e il raccordo anulare in direzione della tangenziale est. È tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Ci si domanda come si muoveranno domani i mercati finanziari e per questo bisogna poter dare valore alle proprie idee con il trading sui CFD. È possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime, iniziando a fare trading con IG. IG ti dà accesso a oltre 20 borse internazionali e la piattaforma non comporta alcun canone di utilizzo. Con il servizio esclusivo Insight avrai un filo diretto con i nostri esperti, con commenti, analisi e news sul mercato. IG ti offre un pacchetto grafici avanzato e un corso online gratuito per imparare tutto sul trading. Chiunque può trasformarsi in un vero trader con IG. Demo gratuita su igmarkets.com. Focus Economia. L'Italia non è allo sbando, è tornato su questo oggi il Presidente della Repubblica dopo le dichiarazioni di ieri non solo del leader dell'SPD ma anche del Ministro delle Finanze tedesco Schäuble, che non perde mai occasione per attaccare l'Italia. Ha detto Schäuble ieri: il risultato inconcludente delle elezioni italiane rischia di far scoppiare una nuova tempesta sui mercati, rischio contagio. Faccio notare una cosa sui clown di ieri, me l'ha scritto un ascoltatore. Nessuno in Germania si è permesso di dire agli Stati Uniti, quando fu eletto Ronald Reagan, che un attore western aveva vinto la Casa Bianca. Allora stiamo tranquilli e buoni, perché non è che si fa i duri con i deboli e i deboli con i forti, eh? Lo dico ai tedeschi, così anche oggi la mia invettiva anti-tedesca è andata in onda. In realtà sentiamo il commento, l'intervento del presidente napolitano accanto al presidente tedesco Joachim Gauck. L'Italia non è senza governo in questo momento. C'è un governo che rimane in carica fino al giorno in cui giureranno i ministri del nuovo governo. Non c'è un'Italia allo sbando e in questo senso io non vedo un rischio di contagio, perché per contagiare prima bisogna prendersi una malattia. Noi per il momento non abbiamo preso nessuna malattia, abbiamo da gestire un risultato elettorale complicato perché c'è stata frammentazione, ci sono state contrapposizioni, si è espresso liberamente il popolo in quel momento assolutamente sovrano. Questa è la legge della democrazia e quindi dobbiamo confrontarci rispettosamente con la volontà espressa dal popolo e dagli elettori. E non ci sarà rischio contagio, non abbiamo motivo per dubitare delle parole del presidente napolitano. Anche il presidente tedesco Joachim Gauck ha detto: non temiamo rischio contagio in Europa, però al di là della copertina dell'Economist, oggi Citigroup dice: attenzione, l'Italia, proprio a causa degli esiti elettorali, delle elezioni, potrebbe chiedere un programma di aiuti alla Banca Centrale Europea già nei prossimi mesi, anche perché potrebbe seguire una qualche forma di ristrutturazione del debito, che, attenzione, altro non vuol dire che quello che è successo alla Grecia. Si aspetta quindi Citigroup che Standard & Poor's e Moody's, le due agenzie di rating, taglino il voto all'Italia di 5 livelli nei prossimi 2-4 anni, ben al di sotto del livello accettabile per un investimento. Sarebbe chiaramente un disastro. Vorrei parlare di questo anche perché poi Van Rompuy oggi ha dichiarato che l'Europa ha piena fiducia nell'Italia, che continuerà a essere un membro stabile e forte dell'Unione Europea. Cioè, c'è un atteggiamento un po' schizofrenico da un punto di vista istituzionale, rassicurazioni, poi quando guardiamo le analisi, le banche d'affari, i report, allarme. Vorrei sapere che ne è di questo rischio contagio con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti, nostro ospite spessissimo quando parliamo di crisi. Buonasera Alessandro. Allora, rischio contagio. Siamo stati abituati a pensare al rischio contagio come un contagio finanziario. Ricordiamolo: la Grecia, la Portogallo, l'Irlanda. Vanno male i conti, la finanza pubblica esplode, le banche rischiano di fallire. Interventi di salvataggio. Allora, come interventi di salvataggio per evitare il contagio? Di quale contagio parliamo oggi? Quello di cui parla Napolitano e quello di cui parlano poi come rischio paventato dei nostri partner è un contagio politico, e questo sarà molto difficile fermarlo, visto che siamo stati contagiati noi stessi. Il contagio è il disagio sociale che parte dall'austerità. È partito dalla Grecia, in Portogallo e in Spagna abbiamo visto durissimi scontri di piazza. In Italia, per fortuna, non li abbiamo visti, grazie a una struttura istituzionale che ha tenuto. E grazie anche a Grillo, che certo, forse ha... Adesso non voglio difendere Grillo, ma forse quella protesta è entrata nel voto invece che entrare in piazza. Esattamente, l'ha portato il voto, l'ha ricomposto all'interno di un gioco democratico invece che un gioco di scontro di piazza. E questo però non nasconde un contagio che c'è stato, cioè il contagio politico di un rifiuto totale di sacrifici e basta. Dall'Europa, evidentemente, e questo bisogna ricordarlo, nessuno ha bocciato l'Europa in quanto tale, nemmeno i greci, ma sono le politiche europee che cominciano a stare questa strette. Questo è quello che viene come messaggio politico dall'Europa: dovete fare sacrifici a tutti i costi per risanare i vostri conti e tornare a crescere. Probabilmente la gente non riesce a percepire questo come un passaggio virtuoso. Vorrebbe avere, in un momento in cui la disoccupazione viaggia oltre il 20% in tanti paesi, alcuni arriviamo fino al 30%, si vorrebbe dall'Europa un intervento più attivo anche nelle politiche di sostegno dell'economia e del lavoro, e non soltanto nella moral suasion per far quadrare i conti di casa ad ogni singolo paese. E questo contagio sarà difficile fermarlo. È come dire, insomma, una famiglia taglia le spese e poi trovati un lavoro. In realtà tu vorresti avere anche qualcuno che ti consigliasse cosa fare, diciamo, oltre che magari ridurre, mi paga i corsi di recupero, mi fa studiare, visto che il contributo italiano al bilancio europeo è un contributo molto forte, uno dei primi in assoluto, e quindi voglio dire uno, senza mettere in discussione le politiche di prudenza, di risanamento, certo, e di risanamento dei conti e le riforme, bisogna però dire con grande serenità che oggettivamente in una situazione di ciclo economico così negativo e del lavoro così duro, di soli sacrifici si muore. È quello che diciamo ieri sul il paziente che si ammala per colpa sua, però anche il medico poi ha delle responsabilità, nessuno dà la colpa alla Germania. Sì, ma questa è un'onda lunga, ormai che sta attraversando l'Europa e anche gli Stati Uniti. Io guardavo con grande sorpresa proprio ieri dalla Camera, dai sondaggi che vengono dati in America, per la prima volta gli americani non vogliono i tagli di spesa, 87 miliardi che rischiano di essere tagliati di qui al 1 marzo, quindi è un'onda globale questa. E adesso ci arriviamo, sì, con la differenza che in America hanno avuto politiche anticicliche, cioè contro la recessione, stampando moneta, spendendo, quello che volete. Qui veniamo da 2 anni in cui l'unica prospettiva che viene data agli elettori è: dovrai soffrire ancora di più. È chiaro che questo poi porta al mal di pancia, si vota meglio con la testa che con la pancia, questo storicamente, certo, dagli anni 20 in poi. E tu citavi giustamente l'Europa non può non tenere conto di quello che viene dalla voce europea, questo è importante. L'Italia è un paese, non è la Grecia, l'Italia è un paese che ha un'economia che significa tanto per l'Europa, che si vive tanto per l'Europa, e non possiamo quindi essere liquidati soltanto come un paese che rischia di destabilizzare l'euro, perché così non è, rischia di destabilizzare un establishment europeo che è germanocentrico in questo senso. Oh, là. No, perché se lo dico io sembra che sia ossessionato dalla Merkel, vi assicuro che non è così. Però attenzione, l'esempio greco non è tanto sull'economia, se ho ben capito il ragionamento di Alessandro Praterotti, ma è sulla politica. Abbiamo visto nascere in Grecia movimenti come Alba Dorata di estrema destra, e ieri l'ultima proiezione vedeva l'estrema sinistra di nuovo partito di maggioranza. Per cui con la pancia si votano gli estremi, la pancia vuota chiaramente, con la testa si vota un governo un po' più di riforme. Ecco, diciamo un così, la domanda che emerge è che fare, perché altrimenti siamo soltanto porti a criticare. No, no, ma che fare? Quello che fare, ci sono delle soluzioni su cui si sta discutendo finalmente, e tutto ruota intorno a un nuovo bilancio europeo, un bilancio che non è più soltanto poco più dell'1% del PIL europeo, ma che arrivi almeno al 5%, per far che cosa? Non per aiutare solo l'agricoltura o in generale l'economia, ma anche per intervenire a supporto della disoccupazione in quei paesi dove il passo dell'economia, il costo del denaro non è uguale a quelli più avanzati del centro Europa. Io ho ancora due domande per te Alessandro, l'ultima riguarda l'America a cui tu già stavi accennando. Questa sera infatti o trovano l'accordo gli americani o vi sarà un taglio in automatico di oltre 80 miliardi di dollari. Però prima di arrivare a questo, proprio sulle proposte, secondo te quanto potranno andare avanti le resistenze tedesche? Perché poi è chiaro che la Germania è il paese leader, Hollande non vede l'ora, e la Spagna, interessante notare il silenzio spagnolo e anche francese, cioè che non hanno detto mamma mia cosa è successo in Italia, sono rimasti zitti perché dicono beh, questo segnale italiano dovrebbe convincere tutti che qua la situazione sta diventando esplosiva, perché il prossimo giro tocca a noi. Allora, quanto ci metterà la Germania a aprire, diciamo, forme più morbide di rientro dal deficit, non di mollare il colpo su ma questo. Ma non è soltanto il principio del rientro dal deficit, ad esempio il calcolo degli investimenti. Giusto. Adesso anche col fiscal compact sono stati introdotti dei margini di flessibilità legati alla crisi. Il fatto è che la Germania non è più in crisi, l'Europa è ancora in recessione, ma parliamo di punti frazionali, si parla già che dal fine 2013 dovremmo uscirne, quindi cadrebbe quel presupposto che è del fiscal compact, che è la crisi delle fattori straordinari di crisi. E invece no, bisogna estendere per un lungo periodo la deducibilità degli investimenti pubblici a supporto dell'economia e del lavoro dal calcolo del deficit. In questo modo ci sarebbe una camera d'ossigeno maggiore per gli stati per poter intervenire a supporto delle famiglie e del lavoro senza incappare nelle sanzioni europee. Questo è il vero nodo della questione, non è la Germania soltanto quanto ci metterà. La realtà con i tedeschi è sempre la stessa: i tedeschi mollano quando vedono dall'altra parte un atto di volontà. Loro, la loro posizione io credo che resterà inalterata, nel senso di dire, se vogliamo ridiscutere dei nuovi equilibri in Europa facciamolo, ma che ognuno mantenga una rotta, che è la rotta di riportare, di quantomeno di riportare le condizioni di crescita che siano il più possibile armoniche in Europa. Quindi la tua soluzione, lo dico a tutti, soluzione, insomma, quello la che mia potrebbe essere una soluzione, magari fosse nostra esatto. È di avere il cosiddetto deficit buono diviso dal deficit cattivo. Uno, per semplificare. Due, aumentare il bilancio europeo, perché guardate che nel 1992, quando nacque l'Europa, la famosa Europa del 92, il PIL, il bilancio dell'Europa era lo 0,75% del PIL europeo. Oggi, che siamo nel 2013, abbiamo l'euro, il bilancio europeo è poco più dell'1%. Cioè, nulla in più. Nulla in più. Alessandro Praterotti, non ce la facciamo a commentare il rischio che l'America domani mattina si ritrovi con un taglio di 85 miliardi, ne parleremo anche domani in Focus Economia. Chiarisco una cosa, visto che ce la scrivete, il deficit buono è quello che crea PIL, quindi l'investimento in infrastrutture, in corsi di formazione, in welfare, anche in defiscalizzazione degli stipendi e dei salari. Il deficit cattivo è quello che raccontiamo ogni mattina. All'inizio di ogni programma, e mi riferisco agli sprechi della pubblica amministrazione, della politica, delle regioni, alle inefficienze, alle mancate liberalizzazioni, alle categorie protette. Quello è il deficit cattivo di un paese. Speriamo che un deficit buono scacci quello cattivo. Grazie al vice direttore del Sole 24 Ore Alessandro Praterotti, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.